E allora vediamo se ora ce la facciamo con questa corrispondenza. Ci senti? Pronto? Sì, ciao. Oh, sì, perfetto. Pronto, ciao. Bene, no. Allora dicevamo, elezioni in Salvador ieri ci sono state, il primo turno si andrà al ballottaggio, ha comunque preso più voti il candidato del Fronte Farabundo Martí di Liberazione Nazionale, che ricordiamo dopo la fine della guerriglia all'inizio degli anni 90 è arrivato per la prima volta al potere 4 anni fa con Mauricio Funes, un candidato diciamo al di fuori del partito, era un ex giornalista della CNN locale e ora tenta di mantenere il governo del paese con Salvador Sanchez. Che ci dici di queste elezioni? Poi, visto che si andrà al secondo turno, ne parleremo di più la prossima volta. Sì, dunque, diciamo che il Frente questa volta aveva provato a fare una scommessa, cioè nel senso invece di un candidato esterno presentare un ex leader guerrigliero, Salvador Sanchez, che appunto era stato uno dei leader guerriglieri protagonisti degli accordi di pace di Esquipulas del 92. E ha provato a fare questa scommessa e ci è andato vicino, insomma, a vincere il primo turno, perché si è fermato praticamente al 48,95% circa. Quindi sì, si va al secondo turno, però con ottime speranze di vittoria. Vedremo un po' quello che succederà in questo mese, perché si voterà il 6 o 9 marzo, il 9 mi sembra che sia domenica, e insomma, però appunto le possibilità sono buone. Ieri c'era un po' di delusione fra i militanti, era prevista una festa qui in una piazza di San Salvador. Ovviamente c'era un po' di delusione, però sicuramente c'è la consapevolezza che questa volta si possa confermare la vittoria, insomma, al secondo turno. E quindi questo, insomma, tutto sommato il processo elettorale è stato abbastanza tranquillo, nel senso che rispetto a tutta la storia, insomma, degli ultimi 20 anni, soprattutto, insomma, dopo gli accordi di pace, non ci sono di episodi di violenza politica come siamo stati negli anni passati, anche rispetto alle ultime presidenziali, quindi non molta meno intimidazione. Chiaramente è contato molto il fatto che il Frente Farabundo Martí sia riuscito un po' a arrivare ai poteri dello Stato, tipo il Tribunale Supremo Elettorale, quindi insomma, a differenza di quello che è successo in altri paesi tipo l'Honduras, anche il discorso Broglie è un po' più difficile da realizzare. E quindi insomma le prospettive erano di speranza di riuscire ad arrivare al primo turno, e veramente non ci si è arrivati per veramente poco. Sì, in effetti. Sembra appunto abbastanza vicino al 50% dei voti. Comunque Sanchez, vediamo insomma come andrà il ballottaggio, probabilmente vincerà lui. Noi in ogni caso ci risentiremo e grazie, un abbraccio, a presto. Oh, grazie, un abbraccio anche a voi. Ciao, ciao. Ciao.